Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Secondo appuntamento legato al Pioniere, questa rivista per ragazzi, che questo giornaletto che ebbe vita dal dopoguerra in casa del Partito Comunista Italiano, che si affiancava ad altri giornali, altre esperienze simili sia all'estero che in Italia nell'ambiente comunista socialista, ma e con tutto quello che significa nella storia d'Italia anche rispetto alla ricostruzione non solo materiale ma anche morale del nostro paese, in particolare in quel ponte di comunicazione con le giovani generazioni che avevano avuto alle spalle sia fascismo 20 anni e sono lunghi, sia 5 anni e sono lunghissimi di guerra. E a questo punto, per rievocare, anche per chi non avesse ascoltato la trasmissione precedente di cosa stiamo parlando, diamo la parola ad Anna Tonelli, direttrice ISCOP della Biblioteca Bobbato, dove a Pesaro si è tenuto nei mesi scorsi una conferenza sul Pioniere, e appunto nella sua introduzione la Tonelli rievocava appunto la figura di Rodari, di Cipollino, Chiodino, Atomino e insomma di tutto il Pioniere. Cerca d'essere serio, vieni giù dal lampadario, ma che modo di giocare questo qua? Ma te lo fa. Lascia stare mamma, se non vuole far la scimmia, per giocare un altro modo ci sarà. Qui non è la giungla, questa è una città. Vuoi una foresta come a Tarzan? Pensa che spavento, tutto un mondo di elefanti, di leoni, coccodrilli e scimpanzé. Vabbè, non tu ce l'hai con me. Vatti a rivestire, ti vuoi proprio raffreddare, perché vuoi girare nudo non si sa. Ma Tarzan lo fa, ma Tarzan lo fa. Allora, come prima avevamo annunciato, sentiamo Anna Tonelli dell'ISCOP che ci presenta un po' la vicenda del Pioniere e ci parla anche dell'importanza per gli storici di questo archivio online disponibile per tutti. Ci concentriamo su un tema che è quello di come si può fare storia attraverso il fumetto, che è un modo da una parte per sottolineare come vecchi e nuovi strumenti, perché il fumetto non è sicuramente uno strumento contemporaneo ma è stato usato anche nel passato, come questo strumento possa raccontare la storia con la S maiuscola o le storie. È tra l'altro uno strumento che sta continuando a produrre delle sollecitazioni, pensiamo solo a Zero Calcare, che è uno appunto delle nuove espressioni che vanno da questo punto di vista, e questo è una prospettiva. Ma l'altra prospettiva altrettanto importante è come il fumetto, in questo caso la rivista, un periodico, possa diventare un mezzo di educazione e di formazione. Quindi teniamo presente sempre questi due versanti che si compenetrano l'uno all'altro, e quindi poniamo l'attenzione su questo periodico, il Pioniere, che è nato nel dopoguerra come una nuova voce che doveva da una parte superare e far dimenticare la propaganda fascista, che sui valori e sulla formazione dei giovani, come sappiamo, è stata particolarmente incisiva, e quindi nel dopoguerra occorreva prendere le distanze da questo tipo di tradizione. E dall'altra, un altro antagonista altrettanto importante era quello della cultura cattolica, che dal punto di vista dell'educazione dei fanciulli, come sappiamo, ha sempre avuto un'egemonia, una leadership quasi indiscussa. E quindi nasce nel dopoguerra questo periodico, che doveva trasmettere i valori dell'antifascismo, della laicità, e utilizza proprio il fumetto come un veicolo di educativo, ma anche nello stesso tempo uno strumento di modernità, perché il dopoguerra segna anche dal punto di vista artistico, stilistico e anche mentale la creazione del senso comune, era diciamo determinante da questo punto di vista. E quindi il Pioniere, che peraltro annovera nella sua redazione nomi autorevoli della cultura come Gianni Rodari, Ada Gobetti, disegnatori Verdini e Berti, un giornale appunto che apre una sfida coraggiosa e difficile, perché doveva contrastare la concorrenza di due colossi che in quel momento costituivano appunto un punto di riferimento fondamentale per la gioventù, cioè il Corriere dei Piccoli, che non ho bisogno di dare tante spiegazioni, che dai primi anni del secolo aveva una sorta di monopolio da questo punto di vista, e un altro periodico di concorrenza, diciamo così, che era l'organo cattolico, il Vittorioso, che poteva contare un nome per tutti fra i propri disegnatori, appunto Iacovitti. In questa sfida il Pioniere non possiamo dire né che vince né che perde, ma che in realtà insomma si caratterizza come un terzo polo, possiamo dire, particolarmente importante per la sua specificità, per appunto non solo il tratto diciamo del disegno, ma soprattutto per i temi che affronta, per l'approccio, che è un approccio moderno, in cui per esempio i temi della scienza o i temi anche della storia vengono affrontati con un occhio e un risvolto particolarmente innovativi. E anche se viene diffuso per un certo periodo con l'Unità, il Pioniere non ebbe una vita facile neanche all'interno del Partito Comunista. Insomma, abbiamo studiato molto la cultura popolare dentro il Partito Comunista e la diaspora sui la visione nei confronti del fumetto è particolarmente interessante da una parte e molto polemica dall'altra. Chi li vedeva i fumetti come la costola americana e quindi qualcosa da demonizzare, perché era un mondo lontano da quella sobrietà comunista che era tipica di quel periodo, e dall'altro invece chi sosteneva che potessero essere proprio in quanto fumetti strumenti della cultura popolare, quindi per avvicinare le masse anche alla cultura comunista. Della raccolta davvero meritoria che ha fatto il Comitato Ricerche Associazione Pionieri, che andando a spulciare archivi, collezioni private e tutto quello che è rimasto ai noi con grande fatica, cioè abbiamo il senso della memoria e della conservazione, e ha messo a disposizione appunto questa intera raccolta di 935 numeri che di fatto coprono tutta la storia del Pioniere. Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big bang up, wherever there's a hang up, you'll find a Spider-Man. noi di Spider-Man non abbiamo bisogno, prendiamo solo la colonna sonora del film, perché parliamo di altri eroi, non supereroi, ma degli eroi proletari, che sono sicuramente quelli che fuoriescono dal pioniere, come Chiodino, come Atomino, ma come Cipollino, di cui presentiamo una storia. Cipollino, l'ortaggio irriverente che si contrappone all'odioso dittatore, l'esattore Pomodorone, le sue guardie armate, quindi arrestatelo, arrestatelo, così comincia la storia che vi sottoponiamo come d'obbligo quando si parla di fumetti a puntate, lasciandovi sempre lì col fiato sospeso in attesa della prossima edicola, del prossimo numero. E quindi cominciamo con ascoltare questo che in realtà è l'audio di un video, un filmato che racconta le vicende narrate da Rodari col suo eroe Cipollino. Prendetelo! Cipollino! Prendetelo! Torna qui! Prendetelo! Adesso ti portiamo in prigione! Non riuscirai a cavartela! Eccolo! Ma dove potevamo scappare? La vedo! È qui! Prendete Cipollino! Cipollino! Prendetelo presto! Torna qui! È inutile che ti nascondi! Cipollino era un bambino cipolla che viveva nel regno della frutta e degli ortaggi. Anche se Cipollino era molto povero, infatti non aveva né una casa né un soldo, era sempre allegro e pronto ad aiutare gli altri. Grazie, Cipollino! Di niente! La vita era difficile nel regno, perché tutta la terra era di proprietà della famiglia reale del ciliegio. Un giorno, Sorzucca cercò di costruirsi una casa. Con un semplice mattone la casa mi farò, non avrà un gran salone, io questo già lo so. E con due semplici mattoni un muro costruirò, non saranno rose e fiori ma mi accontenterò. Il mio più grande sogno è avere un tetto su di me che mi ripari pioggia e vento, anche se piccolo sono contento. Ciao Zucca, amico mio, in onore della tua nuova casa ti ho portato un piccolo regalo. Ecco, è un solido mattone, non ce ne sono di migliori. Avanti, prendilo, avanti. Oh no! La paura di Mastro Uvetta era giustificata, perché stava arrivando il reale esattore delle tasse, il Cavalier Pomodoro, che era acido e cattivo. Zucca vuota di un evasore! Hai costruito su un terreno che non ti appartiene! Lo dirò al General Limone, ti farà imburrare e cuocere al forno! Esci subito da quel manufatto abusivo! Abusivo che non sei altro! Vostra rotondità, il conte Ciliegione mi rilasciò il permesso di costruzione! Silenzio! In nome per conto della reale famiglia del Ciliegio! Io requisisco questa Altenberg! Diventerà la cuccia del mio cane, il terribile Mastino! E sarà... Al ladro! Quale ladro? Non vedo nessun ladro qui! Vi accontento subito, vostra sugosità, eccolo! Bella faccia da schiaffi, eh? Schizzetto impertinente! Ti faccio a fettine! Mi avete chiamato schizzetto, bella idea! Ma detesto le cipolle! L'unico modo per far piangere il Cavalier Pomodoro! Ma non è finita qui! Mi sbatterò tutti in casseruola! Con un bel sughetto di pomodoro! Ah sì! Presto marcirete in prigione! Lì vi passerà la voglia di ridere! Il General Limone era la legge e con l'aiuto del Cavalier Pomodoro si era appropriato della casa di tutti in nome e per conto della reale famiglia del Ciliegio. Chi mi ha pestato il piede? Morti al criminale che ha osato tanto! L'hai visto? E tu hai visto chi è stato? Il padre di Cipollino si fece coraggiosamente avanti. Vostra succosità, perdonatemi, sono solo una vecchia cipolla. Sono stato io, vostra credine, io che, senza volerlo, vi ho pestato il piede. Tu! Arrestatelo! Ah, Il vecchio Cipollone era un criminale. Dopo aver complottato per mesi ha cercato di assassinare il general Limone con un pelopatate. Pelopatate? Ma che? Era una grattugia. Una grattugia? No, no, no, siete fuori strada, ma che dite? Era un tritatutto. Oh, hanno rinchiuso il vecchio Cipollone al limonucciardone. Gli hanno dato l'ergastolo. Cipollino, figlio mio. Padre, sei stato arrestato per quello che ho fatto io. Non importa. Ti tirerò fuori di qui. No, ti scongiuro, va via. È pericoloso. Non ti preoccupare, padre. Troverò il modo di liberarti. Costi quel che costi. Riuscirà Cipollino a liberare la vecchia cipolla al padre dalle galere orrende dell'orrendo, altrettanto orrendo, esattore Pomodorone? Lo sapremo la settimana prossima con le astuzie del piccolo ortaggio, eroe del pioniere. Per oggi direi che è tutto, noi ci congediamo, ma vi diamo appuntamento come sempre alla prossima puntata, non solo per sapere come andrà a finire con Cipollino, ma anche per avere altri discorsi storici, didattici e anche legati alla politica su questo importante giornaletto dei ragazzi. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?